Credi che un bicchiere di pioggia basterà. Sarai come un ragazzo che vive in un sogno nel latte di lucertola. Ma il cielo è un foglio di carta dove hanno scritto una bugia. E lo giuri su quello che non vuoi perdere. Sai che se l'etere precipita qualcosa poi evapora. È solo un foglio di carta dove hanno scritto una bugia. Credi a quello che si scrive sulla sabbia, sai che la ragione si diverte a nascondere. Se credi che un bicchiere di pioggia basterà.